Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, bentornati a tutti da Deborah Rosciani. Continua la caduta, ma sembrerebbe un po' meno accentuata dei mesi precedenti, almeno dell'ultima parte del 2008. Così gli operatori del settore descrivono l'andamento del credito al consumo secondo quanto rilevato nei primi sei mesi di questo durissimo 2009. Relativamente ai comparti, la situazione continua ad essere quella che, tutto sommato, complessivamente abbiamo già più volte descritto nei mesi precedenti, prima di andare in vacanza. Le famiglie chiedono meno prestiti per beni durevoli, cioè meno prestiti finalizzati, quelli per comprare l'auto per intenderci, mentre a tutto vantaggio questa situazione va dei prestiti personali e continua anche ad aumentare la formula della cessione del quinto dello stipendio, forse però con una frenata in agosto, e adesso ne parleremo. La domanda rivolta a voi: qual è la vostra necessità di questo momento? Pensate di chiedere un prestito da qui a Natale? Come monitorate l'offerta di mercato e a quale esigenza eventualmente un finanziamento dovrà rispondere? A quale vostra esigenza personale? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Noi stamattina ne parleremo con Giuseppe Pianomortari, direttore operativo di Assofin, l'Associazione Italiana del Credito al Consumo, e Giancarlo Cupan, presidente di Prometeo, una società leader nella mediazione creditizia. 349 238 6666 invece è il numero per i vostri messaggi. La borsa era partita molto bene stamattina, con rialzi che sono arrivati ad oltre mezzo punto percentuale. Adesso il quadro è cambiato. Abbiamo una discesa di Parigi dello 0,35%, Francoforte meno 0,02%, Londra meno 0,47%, Milano, che da stamattina la miglior piazza d'Europa è arrivata a guadagnare quasi un punto, adesso ha perso tutto quello che aveva guadagnato ed è negativa per lo 0,2%. Scatto di Mediaset poco fa, che adesso avanza del 3,61%, Ansaldo più 2,85%, Unipol più 2,80%, Fondiaria più 2,33%, questi i migliori titoli della seduta in questo momento. E mentre in avvio non c'era nessun titolo negativo, adesso questa lista di titoli con il segno meno si è allungata e alcuni titoli sono arrivati a perdere, stanno arrivando a perdere anche quasi due punti: Luxottica, Prismian, Buzzi Unicem sono fra quelli, Geox meno 1,86, Autogrill meno 1,79. Settore del lusso va male insieme al comparto bancario, ma il lusso in particolar modo probabilmente risente dell'indebolimento che continua del dollaro su tutte le altre divise, in particolar modo verso l'euro. Adesso il cross è a 1,45,37. Lasciamo subito la borsa, andiamo al tema di questa mattina, ritorniamo su uno dei grandi cavalli di battaglia di Salva Danaio, parliamo dei nostri prestiti. Gli effetti della crisi economica non hanno risparmiato il comparto del credito al consumo, che nei primi sei mesi del 2009 ha registrato una frenata dell'11,2%. A soffrire maggiormente è stata l'erogazione di prestiti personali, in calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2008, ma la caduta più pesante si è registrata nei prestiti finalizzati, cioè gli acquisti a rate, crollati del 20% come diretta conseguenza della gelata dei consumi. Sul fronte opposto si sono mossi i prestiti di liquidità e ancora di più i prestiti con la formula della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che godono del vantaggio dell'intermediazione del datore di lavoro o dell'ente pensionistico. In crescita anche l'utilizzo di carte revolving, aumentate del 2,9%, che consentono di rimborsare a rate il saldo di fine mese. Il lato negativo della medaglia, come sempre, è rappresentato dall'incidenza dei tassi applicati sui prestiti, anche se qualche buona notizia da questo punto di vista è arrivata nei mesi scorsi grazie all'introduzione del cosiddetto bollino blu, una sorta di marchio di qualità dei prestiti voluto da Assofin, l'associazione che rappresenta i maggiori operatori del settore, che ha lanciato una vera e propria operazione trasparenza su tutto il comparto. 800 24 00 24, chiamateci, raccontateci un po' come siete orientati ad affrontare l'inverno, l'autunno che è alle porte, se avete necessità di sostenere qualche spesa per risolvere anche qualche problematica familiare, se avete intenzione di farlo attraverso un finanziamento, un prestito, come vi state muovendo, come state monitorando l'offerta. Allora, l'iniziativa del bollino blu di cui parlavamo nella nostra scheda è frutto dell'iniziativa Alla Pari di Assofin. Buongiorno a Giuseppe Pianomortari, io direi che, visto che l'abbiamo introdotta, togliamoci subito questo dente di presentarla ai nostri ascoltatori. Noi l'avevamo già fatto a soldi e dintorni prima dell'estate, in concomitanza con il lancio, forse è stato fatto questo lancio, se non ricordo male, a fine giugno, Pianomortari. Sì. Cosa vuol dire che una persona può mettersi alla pari con una società finanziaria, come lei potrà immaginare? Giudico subito questa con prospettiva abbastanza improbabile. Allora, buongiorno innanzitutto a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, allora, con il nome alla pari indichiamo alcune iniziative che diciamo abbiamo lanciato nel corso di quest'anno e anche dell'anno scorso. La principale delle quali, quella più innovativa, diciamo, che abbiamo lanciato quest'anno, riguarda le campagne pubblicitarie che vengono realizzate dalle nostre associate, che possono essere sottoposte preventivamente alla valutazione di un soggetto terzo, che è lo IAP, cioè l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che valuta i contenuti della campagna sulla base del suo codice e, nel caso in cui dia l'assenso, cioè valuti positivamente i contenuti della campagna, la campagna può fregiarsi del bollino blu, appunto, alla pari. Quindi alla pari vuol dire giochiamo pulito, noi diciamo accanto al logo c'è una dicitura che è noi più responsabili e voi più consapevoli. Noi come mondo dell'intermediazione finanziaria riteniamo di fare uno sforzo per essere appunto più responsabili sottoponendo le campagne pubblicitarie alla valutazione di un soggetto terzo e quindi evitando tutti quegli accorgimenti che talvolta nelle pubblicità vengono utilizzati e che vanno a discapito della chiarezza o della trasparenza dei confronti. Quindi quello su cui voi vigilate non sono le condizioni dell'offerta, perché ogni società, poi il mercato ovviamente è libero, può fare quello che vuole, ma le modalità con cui le condizioni delle offerte vengono trasmesse agli utenti finali. Esattamente, la valutazione viene data appunto da questo soggetto terzo, quindi non da noi. Noi diamo l'autorizzazione a utilizzare il bollino a quei soggetti che abbiano avuto l'autorizzazione da parte dello IAP. Da giugno ad oggi, da quando avete lanciato l'offerta ad oggi, che cosa è successo? È successo che 5 associate tra le principali hanno già aderito e sottoposto le loro campagne, alcune sono anche già partite, quindi in qualche campagna radiofonica oppure di cartellonistica si può già vedere il logo alla pari e sappiamo che altre associate stanno sottoponendo in questi giorni, quindi vogliono presentarsi con tutte le carte in regola in modo tale da evitare insomma un clamoroso rifiuto. Giancarlo Cupane, presidente di Prometeo, società di mediazione creditizia, anche lei è venuto spesso a Salvadanaio, quindi in sostanza veicolate poi l'offerta di queste società che teoricamente dovrebbero tutte meritare il bollino. Le piace questa iniziativa di comunicazione, soprattutto trasparente verso l'utenza finale? Mi piace molto, intanto anch'io saluto, buongiorno a tutti, oltre che a lei ovviamente. Mi piace molto perché giustamente l'aspetto pubblicitario è un punto critico dell'offerta, si parla molto di asimmetria informativa tra chi offre la domanda e partire fin dalla pubblicità per riequilibrare, quindi mi piace anche il nome alla pari, è una bella iniziativa. Noi avevamo giustamente Antitrust che fa il suo mestiere e che sanziona le pubblicità ingannevoli, mi piace anche un'iniziativa che parta, che prevenga oltre prima ancora di sanzionare, che aiuti l'offerta a essere fin da subito trasparente. Tra l'altro, torno per un attimo a Piano Mortari, come riconosciamo esattamente questo bollino? Abbiamo detto bollino blu, ma è così banale, insomma, come fa ad individuarlo la persona che chiede un finanziamento e vuole sapere se questa società finanziaria si è mossa secondo i canoni che avete fissato? Sì, noi abbiamo scelto il colore blu proprio perché richiama il concetto di bollino blu, ma c'è un simbolo di uguale in bianco in un fondo azzurro e poi c'è la scritta alla pari accanto appunto a questo bollino, con anche diciamo l'intestazione che dice noi più responsabili, voi più consapevoli. Deve essere di dimensioni visibili rispetto ai contenuti della cartellonistica, oppure deve essere citato nelle pubblicità radiofoniche, televisive, eccetera. Quindi, insomma, tutte le volte che viene citato, questo vuol dire che quel messaggio pubblicitario è stato sottoposto all'approvazione e approvato da parte dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Benissimo, allora, se volete chiederci qualcosa in più rispetto all'iniziativa alla pari, chiamateci all'800 24 00 24. In realtà poi io ho invitato anche i nostri ascoltatori a raccontarci quale tipologia di prestito stanno chiedendo in questo momento. Tra l'altro, noi prima di chiudere il Salvadanaio d'agosto, così avevamo un po' gettato uno sguardo preoccupato sul mese di settembre, quando in molti ci dicevano che molte aziende non avrebbero riaperto e chissà quante condizioni familiari sarebbero cambiate in questo mese. È cambiata la vostra situazione economica e quindi è una situazione economica nuova che vi sta mettendo nella condizione di ricorrere a prestiti e finanziamenti? Come vi state muovendo? Qual è l'osservatorio di Prometeo Cupane? Quali sono le esigenze delle famiglie che si stanno rivolgendo a voi per chiedere finanziamenti? Beh, mi piace, visto che tempo fa qui da lei avevo fatto un po' la Cassandra dicendo prevedo mesi di riduzione dei volumi, comincio a vedere qualche timido segnale, vado a sensazione di riapertura, sia sul fronte della qualità della domanda, per cui i clienti che arrivano a chiedere prestiti anche veramente di nuovo per permettersi acquisti, per permettersi anticipi di redditi futuri, più che solo per gestire situazioni magari un po' a rischio, come invece abbiamo vissuto negli ultimi mesi, e sia anche sul lato dell'offerta, parlando, io lo posso fare da mediatore creditizio, i due punti di osservazione di percentuali di approvazione. Perché una cosa che vorrei dire e introdurre e buttare sul tavolo, senza esagerare nella provocazione, ma lo voglio dire, i numeri in calo di questi mesi sono stati dovuti a un calo della domanda, ma anche a un calo delle approvazioni, per cui non solo, cioè, diciamo, meno peggioramento generale del merito di credito dei richiedenti, lo spezzo di nuovo il dato, questo peggioramento delle approvazioni in parte era dovuto al peggioramento del merito di credito, in parte era dovuto alla difficoltà per gli istituti di credito di approvvigionarsi con le formule, che oggi sono meno in uso, situazione che abbiamo raccontato moltissimo, quindi insomma una situazione piuttosto complessa dalla quale speriamo di poter uscire al più presto. Cominciano a migliorare entrambi i driver di questo fenomeno. Benissimo, sì. Cominciamo a sentire anche gli ascoltatori. Allora, Luca da Milano, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei, grazie molto per l'intervento e un buongiorno ai suoi ospiti. Grazie Luca. Grazie. Un cliente, del credito al consumo, e a tutt'oggi sto pagando una grossissima finanziaria per quanto riguarda il credito al consumo, con dei bollettini postali. Una piccola premessa, voglio dirvi che pure io sono un venditore e anch'io vendo a chi è tende al credito al consumo, quindi apparati tecnologici. Quindi anch'io vendevo prima in un negozio e quindi utilizzando il credito al consumo ai miei clienti. Devo dire una cosa, invito lei e i suoi ospiti a fare un'analisi a gambero, quindi andando all'indietro, su quello che è il post vendita del servizio al consumo, quindi una gestione del customer service relativamente ai clienti, che io trovo in questo momento estremamente scarsa. Cosa voglio dire? Per motivi personali io viaggio e mi capita spesso di pagare anche 2-3 rate in anticipo alla finanziaria, onde evitare di essere insolvente. Quindi perché è un qualche cosa che non mi piace. Cosa è successo? È successo che per motivi personali non sono riuscito a pagare una rata, demandando a qualcun altro di doverlo fare, ma non lo ha fatto. Mi sono visto recapitare a casa una lettera dove, a parte la rata da pagare, gli interessi altissimi, ragazzi, vi garantisco interessi altissimi, con una nota del tipo che se io non pagavo questo venivo segnalato agli organi di competenza immediatamente. Questo mi ha un po' irrigidito, nel senso, ho chiamato la finanziaria, ho spiegato la situazione e vi garantisco una risposta dell'operatore estremamente, chiamiamola acida, ma del tipo: fa, guardi che non è un nostro problema se lei non ha pagato, lei ha firmato un contratto con noi, quindi lei deve pagare, e senza un minimo di gentilezza, educazione. Guardi che io anche alcune volte ho pagato in anticipo, però non ho avuto chiamate da parte vostra dicendomi che grazie per essere stato come è stato bravo e puntuale, addirittura pagato in anticipo. Luca, mi devo fermare perché ho il meteo, la pubblicità, ma abbiamo capito quello che le è successo e sono convinta che i miei ospiti di questa mattina vorranno commentare molto volentieri quello che le è successo. Chissà che non ci sia bisogno anche di assegnare qualche bollino qua, magari di un altro colore. Giuseppe Piano Mortari, poi con questa provocazione riparto da lei nella seconda parte, anche ai servizi, come dire, ai customer service, li chiamali a definizione Luca, giustamente, agli operatori dei call center di queste finanziarie che devono comunque aiutare la clientela anche quando si trovano in frangenti così problematici. Ritorniamo a Salva Danaio, oggi impegnato ad esplorare un po' il trend, l'andamento del settore del credito al consumo, i prestiti, perché cosa li stanno chiedendo in questo momento le famiglie italiane. Non abbiamo ancora parlato esattamente di finalità, di destinazioni, quanto invece come dire, di comparti, no? Quali si stanno muovendo, la tendenza che si sta manifestando, almeno secondo i primi segnali, ancora quella di chiedere prestiti di liquidità, meno prestiti finalizzati, quindi meno finanziamenti per comprare l'arredamento nuovo della casa, piuttosto che il televisore, piuttosto che l'auto. Prima di rispondere alla domanda che era stata piuttosto articolata, comunque alla considerazione dell'ascoltatore Luca da Milano, volevo ritornare per un attimo a Giancarlo Cupan, presidente di Prometeo, perché mi stava raccontando a microfoni spenti che c'è una situazione piuttosto interessante anche per quello che riguarda il consolidamento del debito, e ha osservato dei movimenti negli ultimi mesi, Cupane, che non le piacciono tanto, magari partendo anche da una spiegazione sulle modalità del consolidamento, che cos'è? Ho un punto fermo io di cui parlo praticamente ogni volta che ne ho occasione, la gestione del passivo, che mi piace il consumatore che si gestisce il proprio passivo e che lo faccia a ragion veduta e non solo facendosi prendere dalle offerte del momento. Noi abbiamo convinto un istituto di credito con cui collaboriamo da tempo, nel mese scorso di ottobre, a fare un test sul prodotto di consolidamento fatto con convinzione, con molta attenzione. Anche consolidiamo i debiti quando tutte le rate che stiamo pagando le mettiamo tutte insieme e la facciamo diventare solo elevate una. Perché ho diversi prestiti, li trasformo con un unico prestito con una durata maggiore, quindi in un impegno minore. Ricordo che abbiamo fatto una trasmissione qui dove si diceva quando il peso delle rate sto iniziando è la sesta stagione di Salvadanaio, immagini lei quante ne posso aver fatte. Perfetto, e io mi permettevo di dire magari facciamolo un po' prima che il peso sia già diventato eccessivo, non quando non ce la faccio più. Siamo andati alla proposta, la novità di quel prodotto è che eravamo noi a proporre il consolidamento al cliente. Il cliente ci chiedeva 5.000 euro di prestito, vedendo la sua situazione gli dicevamo guarda, se vuoi ti posso anche dare i 5.000, ma siccome hai già 20.000 euro di impegni con rate un po' alte te ne propongo 25, 20 li uso per liberarti dagli altri impegni, la rata complessiva anziché crescere quindi diminuisce. Diciamo ci si interfaccia con un unico interlocutore, questo credo anche che ridimensioni non poco le preoccupazioni. Non poco. Se si riusciva, anche perché le rate già erano per 20.000 euro, si doveva aggiungere quella per i 5, invece addirittura si sottraeva pur dando i 5 al cliente. Abbiamo fatto una cinquantina di pratiche di questo tipo e poi l'istituto di credito ci ha detto le facciamo per un mese e poi 6 mesi dopo vediamo come va. 6 mesi dopo non abbiamo ancora dati di insolvenza significativi perché 6 mesi sono pochi, però c'è un dato che mi ha molto disturbato e mi è molto dispiaciuto: più della metà di queste persone pochi mesi dopo erano andate a chiedere altri soldi, altra liquidità, a volte l'avevano avuta, a volte no, ma si vedeva che erano andati a fare altre richieste. E per carità, un imprevisto può capitare, ma più della metà vuol dire che era un fenomeno sistematico per cui, liberata la capacità di reddito, si decide di reimpegnarla per magari di un nuovo acquisto o esattamente. Di un nuovo sfizio, diciamo così. Insomma, non commentiamo questo andamento, a lei disturba un po', sicuramente in un frangente magari economicamente parlando delicato evitiamo di avventurarci di nuovo in operazioni di finanziamento che poi magari ci fa ritrovare nella situazione originaria dalla quale siamo partiti. Veramente, gestione del passivo, io mi dico giustamente quando abbiamo dei risparmi ragioniamo tanto su come gestire il nostro attivo per guadagnarci un po' di più. Gestendo meglio il passivo risparmieremmo forse più di quanto possiamo guadagnare gestendo l'attivo. Allora, ci sono un paio di chiamate in attesa. Intanto il rendimento del bot a 3 mesi è sceso poco fa di nuovo al minimo storico, lo 0,38,5%, in calo anche il rendimento dei 12 mesi. Torneremo presto a Salvadanaio ad occuparci anche dei nuovi tassi, dei nuovi rendimenti sui titoli di Stato ma anche sulle altre obbligazioni. Intanto Giuseppe, piano Mortari, Assofin. Abbiamo sentito Luca da Milano che ha dovuto fare un finanziamento per l'acquisto, non so di che cosa, questo non ce l'ha spiegato. Lui paga con i bollettini postali, è sempre non solo puntuale, ma paga sempre largamente in anticipo, 2 o 3 rate, e per una volta che è stato in ritardo, insomma, è stato pesantemente, non so quale termine utilizzare, trattato male, lui dice, dalla finanziaria, perché ha voluto spiegare al numero verde, poi non so che servizio avesse questa finanziaria, di disponibilità verso il cliente, e però loro non si sono convinti. Che cosa le suggerisce tutto questo? Beh, spiace l'episodio raccontato da Luca di Milano. Questo tipo di episodi si verificano più spesso quando il rimborso avviene attraverso bollettini postali, perché evidentemente se si sceglie una forma automatica di rimborso, cioè la debito automatico in conto come il RID, evidentemente la puntualità è garantita dal fatto che c'è un automatismo definito tra banche. Laddove invece è necessario che si attivi il cliente a pagare, certe volte lo fa in anticipo e nessuno evidentemente si lamenta quando il pagamento avviene in anticipo, quando avviene in ritardo invece sì. E io posso concordare sul fatto che magari c'è stata, almeno fino a un po' di tempo fa, un po' troppa rigidità anche nel valutare questi casi. Adesso molte società hanno dei prodotti che prevedono invece, diciamo, sin dall'inizio la possibilità di saltare una rata o comunque di prevedere un rimborso ritardato di almeno una rata, perché si sa che succede nell'arco della vita di un finanziamento e quindi molti operatori hanno costruito dei prodotti che prevedono espressamente questa possibilità. Quanto alla lettera diciamo con un po' minatoria, nella quale si dice guarda che hai pagato in ritardo e sarai segnalato al prossimo ritardo. Questo non è un tentativo di convincere il cliente, ma è un obbligo di legge. Laddove ci sia un ritardo nel rimborso di una rata, obbligatoriamente, in base a quello che è previsto da un regolamento in tema di privacy, è necessario scrivere al cliente e dire guarda c'è stato un ritardo, ancora non ti segnalo, ma al prossimo ritardo sono tenuto a segnalarti. Quindi non è, l'intento non è quello di spaventare il cliente, infatti, ma solo che magari quando uno è un po' in difficoltà perché già sa che ha pagato in ritardo e quindi è già in una posizione di torto, magari, come dire, traduce quelle poche righe in questa maniera. Quindi quali indicazioni operative possiamo dare, pratiche concrete, dottor Piano Mortari, ai nostri ascoltatori? Intanto, se possibile, facciamo l'addebito automatico. Preferire il RID perché non si corrono questi rischi, non si corre il rischio di dimenticarsi oppure di... Esatto. Secondo, se Luca ci ha detto che si è dimenticato di questa rata, aveva avuto dei problemi e non ha potuto fare il pagamento in tempi regolari, ma se invece presumibilmente ipotizziamo di doverci trovare, di trovarci in difficoltà finanziarie, di non poter rispettare il termine di un pagamento, chiamiamola finanziaria? Assolutamente sì, il suggerimento è un po' più buono in quel caso? Ma allora, insomma, dovrebbe esserlo. Poi sono d'accordo che non sempre il post vendita in passato soprattutto è stato gestito come bisognerebbe. In ogni caso è sempre meglio fare una telefonata preventiva, spiegare le ragioni eccetera, chiarire che c'è stata una difficoltà momentanea eccetera, e cercare di concordare con la finanziaria la soluzione migliore. E allora, insomma, dopo la comunicazione e le campagne pubblicitarie, magari un bel bollino mettiamolo al post vendita. Io le lancio questa idea, Piano Mortari, come sa questo piccolo contenitore, questa stanza, a volte anche frutto di qualche idea interessante. Fulvio da Livorno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, ci dica cosa le è successo. Io ho acquistato un negozio un televisore a rate, 22 rate, un mini finanziamento mirato. Erano 33,9 a rata. Sì. A RID. Arriva primo tratto conto, era 38,9 perché c'era 1,5 euro di spese di incasso e 3,5 euro di spese di spedizione tratto conto. Sente, solamente questi 5 euro in più che lei ha pagato sono stati solo applicati alla prima rata o poi sono proseguiti anche per tutti i finanziamenti? Ho chiesto spiegazioni, ho cercato di parlare con la finanziaria, ore al telefono in attesa, non c'è stato verso. E qui ritorniamo sulla post vendita. Allora sono andato al negozio, il negozio mi ha promesso che si sarebbe interessato, il mese successivo idem. Allora mi sono arrabbiato, ho tolto il RID, ho mandato una lettera alla finanziaria e al negozio dicendo che io voglio pagare 33,9 ma non a RID, mi diano gli strumenti per farlo, bonifico, quello che voglio. C'è io riuscito? Voglio pagare però 33,9. Mi hanno mandato un bollettino postale precompilato, le prime due rate precompilate, e c'era sopra 1,5 euro di spese di incasso. Io le prime due rate le ho ignorate perché me l'avevano già prese con RID, e le altre le sto pagando a 33,9 come pattuito il negozio. Il negozio. Allora, Fulvio, la ringrazio. Qua torniamo tra l'altro Piano Mortari. 3 secondi fa abbiamo suggerito di fare il RID bancario, adesso scopriamo invece che Fulvio, che aveva scelto questa modalità per togliersi questo pensiero mensile di evitare i bollettini, ci pagava sopra delle spese di gestione, poi non so, 5 euro l'incasso rata, va bene, e poi l'invio dell'estratto conto, ma è una spesa appunto che va gestita mensilmente. Peraltro, adesso io non vorrei infierire, l'ascoltatore non ci ha detto la finanziaria, ce l'aveva detta al nostro centralino, è stata la finanziaria che per prima ha aderito alla campagna alla pari, però insomma gli standard di comunicazione non sono stati esattamente secondo quanto avete predisposto. Attenzione, qui è però un problema leggermente diverso. Io invito il Però di Fulvio fatto questo poi gli ascoltatori, cioè le persone capiscono, sì, questo sì, no, certo, loro certo. Sulla rata ragionano, Piano Mortari. Sì, no, io invito Fulvio da Livorno a guardare il contratto, perché non ho dubbi sul fatto che nel contratto c'è scritto che per ogni incasso di rata sarà richiesto un importo pari a. Allora, io invito Fulvio eventualmente a fare avere anche la redazione. Ma lei ha senz'altro ragione. Allora, magari quando gli hanno detto che doveva pagare una rata di 33,90 euro, magari gli avrebbero dovuto dire immediatamente, poi c'è questa applicazione. A cui si aggiungono. Esatto. No, ecco. È un obbligo di legge questo. Nel contratto, ma anche negli altri documenti che devono essere stati forniti in fase precontrattuale, cioè il foglio informativo, il documento di sintesi, non possono non essere riportati tutte le voci di costo, tutti i costi. E quindi le spese di incasso e le spese di invio delle comunicazioni, che peraltro non avvengono mensilmente ma periodicamente, cioè una volta all'anno. A che livello del contratto è posizionata questa voce in cui ci viene detto che abbiamo 1,50 euro di spesa rincassorata? Laddove ci sono le condizioni economiche devono essere riassunte tutte, diciamo, in quella sezione, e quindi devono essere riportate lì. E do anche un'altra informazione, che è questa: queste spese fino ad oggi erano escluse dal calcolo del TAEG. Stanno, il tasso complessivo del finanziamento, il tasso annuo effettivo globale, che è il costo complessivo del finanziamento. Sulla base di quello che prevede la direttiva, che è in fase di recepimento, la nuova direttiva sul credito consumo, che è in fase di recepimento, dovrà essere recepita entro la prossima primavera, tutte le voci di costo, comprese queste, dovranno essere incluse nel calcolo del TAEG. Quindi, come dire, anche questi costi finiranno a incidere sul TAEG. Ritorniamo a Salvadanaio. I nostri prestiti, i nostri finanziamenti, li chiediamo per che cosa in questo momento, che tassi abbiamo trovato, e stiamo un po' affrontando il tema ad ampio spettro, per la verità. E adesso abbiamo trovato un ascoltatore insoddisfatto perché ha comprato un televisore e ha sottoscritto ovviamente un contratto di finanziamento per poterlo pagare a rate, ma ha scoperto, quando ha cominciato a ricevere gli addebiti delle rate dal proprio conto corrente, che in realtà la rata che pagava era molto più alta, 5 euro in più, e non sono poche rispetto a quanto, dice lui, pattuito. Allora, qual è il tema? Abbiamo cercato di sciogliere il bandolo della matassa. Giancarlo Cupane, presidente di Prometeo, chi gli ha venduto il finanziamento? Mi compete entrare in questa discussione perché qui chi ha intermediato, anzi, esatto, chi ha distribuito, perché qui il problema, più che di post vendita, questa volta è soprattutto un problema di vendita, ovvero di trasparenza del processo di vendita. E c'è poco da fare, mi rendo conto che sia un problema importante, ma quando c'è la distribuzione che propone il prodotto finalizzato, inevitabilmente, per almeno due ragioni: una è la mancanza di tempo di formare tutti coloro che stanno alle casse in modo pieno e perfetto, l'altra è anche l'attenzione del cliente stesso, che spesso, quando sta comprando qualcosa a rate, pone molta più della propria attenzione sull'oggetto che sta comprando che sul fatto che di fatto stia firmando, stia facendo due cose, un acquisto e un finanziamento. Quindi il momento dell'acquisto sul punto vendita è un po' meno trasparente anche per questo motivo, però mi tocca dirlo che gli obblighi di trasparenza dei venditori della distribuzione dovrebbero essere sempre rispettati e stringenti. C'è la normativa sulla trasparenza che dice che l'intermediario finanziario deve vigilare su come viene offerta, ma a volte anche l'intermediario finanziario fa fatica perché non sa fino a che punto chi ci sarà alla cassa in quel momento. Ci sono molti distributori che hanno più rapporti con più banche diverse, quindi a volte offrono un prodotto e poi magari ne è un altro, c'è magari un po' di confusione, magari quello sul quale vengono remunerati un po' meglio, perché poi anche loro chiaramente distribuendo il prodotto, anche questo è una voce importante, eccetera. Io direi che qui, sinceramente, più che attaccare il mondo dell'intermediazione finanziaria, bisogna fare una considerazione sul mondo della distribuzione che ha proposto quel prodotto, ecco, senza voler colpevolizzare nessuno, però vanno cercati. Insomma, siccome problemi, queste cose poi capitano, allora, tanto per fare anche qua una raccomandazione stringente ai nostri ascoltatori, sulla scia dell'esperienza che è toccata l'ascoltatore di Livorno, magari nel momento in cui comprate il televisore non è detto che dobbiate portarvelo a casa in due secondi. Se ci firmate insieme anche il contratto di finanziamento, aspettate due secondi, leggetevelo bene, portatevelo a casa, e magari spuntano poi le evidenze, sì, no, quello, che poi rischiano di spuntare. Visto che ho parlato del modo in cui è stato presentato, è vero che nel contratto c'è scritto tutto, anche questi costi aggiuntivi. Sì, io ricordo che il consumatore ha sempre il diritto di chiedere la copia idonea per la stipula, così si chiama in senso tecnico, cioè la copia del contratto, se la può portare a casa, può confrontarla con altre offerte, e questo è quello che il consumatore deve abituarsi a fare. Se compra il televisore in quel centro commerciale, il centro commerciale gli dice: ti do l'opportunità di fare il finanziamento per comprare questo televisore con la finanziaria che è intermedio, non c'è nessun obbligo di fare il finanziamento con quella finanziaria per portare a casa il medesimo televisore, piano mortari? No, ovviamente no, quella è una proposta, e il cliente può chiedere la copia del contratto e portarsela via e confrontarla con offerte alternative. Benissimo, insomma, anche questa è una cosa utile da sapere, perché molto spesso invece ci riteniamo vincolati rispetto a quanto il centro commerciale ci propone. Chi sentiamo? Sentiamo Luca da Milano. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci dica. E niente, io sono l'altra faccia della medaglia, ovvero lavoro per una finanziaria e ho spesso a che fare con clienti che non pagano la rata puntualmente e quindi glielo si bisogna ricordare. Ma lei come si pone, insomma, con pazienza Luca oppure li chiama e usa un po' dei toni minacciosi, quelli che spaventano anche i nostri ascoltatori e poi ce lo vengono a raccontare? No, guardi, tengo a precisare che il nostro è un servizio, nel senso che non facciamo parte di una società di recupero crediti che quindi deve recuperare e per cui è disposta a tutto. Noi, facendo parte appunto della banca, semplicemente ricordiamo al cliente che non ha pagato e che dovrebbe pagare perché ha un suo interesse. E spesso capita di trovare clienti che si dispiacciano del nostro contatto e si dispiacciono della lettera che gli invitiamo. Si sentono un po' offesi, certo. Esatto. E come è stato detto giustamente da voi in studio, non è una cosa che noi facciamo perché siamo cattivi, ma semplicemente siamo tenuti per legge a certo informare il cliente di tutte queste cose. In più capita spesso anche di trovare clienti che hanno pagato magari qualche rata in anticipo e in base a questo, per questo motivo si sentono in dovere di poter pagare rata, possono non pagarla. E questo purtroppo non è possibile, ma non tanto perché l'istituto di credito non lo concepisce, ma perché i sistemi ormai sono tutti informatizzati e quindi se il sistema vede che un cliente non ha pagato una rata non va a verificare da solo che magari è stata pagata quelle precedenti, le ha pagate in largo anticipo. E Luca, lo so, poi tra l'altro in questa crisi economica noi abbiamo giudicato anche piuttosto male, in un momento proprio come questo, il fatto che il merito di credito della gente sia così proprio giudicato solo attraverso i database delle banche, ma abbiamo più volte invitato anche i direttori di banca a tornare a fare proprio i direttori del territorio, della gente, quindi magari a valutare in maniera un po' più sensibile anche le singole situazioni. Abbiamo capito però perfettamente il suo lavoro, lei continui a farlo serenamente. Naturalmente poi la sera qualche volta si va a casa un po' arrabbiati perché abbiamo dovuto raggiungere 10 persone non in regola con le rate che ci hanno anche magari che vi hanno anche un po' insultato. Luca, la ringrazio, io la saluto rapidamente perché ho 3 minuti e vorrei sentire anche Gianni da Milano per poi concludere con Piano Mortari e Cupane. Gianni? Sì, mi sente? La sento. Bene, lei ha comprato il frigorifero, giusto? Io ho comprato un frigorifero di quelli grossi, quindi un costo discretamente elevato, in una delle solite catene di distribuzione di grande livello, e mi hanno costretto a fare il finanziamento. Con la pistola puntata? Tanti mi hanno detto non si può fare. Ah, ecco. Ho aderito a questa iniziativa, e ho pagato la prima rata, poi mi è arrivato un sollecito di pagamento con immediatamente la minaccia di segnalazione al CRIF o al CRO, che non ricordo come si chiami, e questo mi ha fatto imbestialire perché non sono mai stato protestato in vita mia. No, Gianni, lo credo. Ma mi scusi, Gianni, ma perché lei quel giorno non ha lasciato lì il frigorifero? Ma che cosa significa che è stato costretto a fare il finanziamento? Aveva una pistola da tempia, mi chiedo, no? Perché magari no, c'è pure certo, qualche dinamica no, strana. Certo, io lo lasci lì. Che cosa vuol dire che non accettano il contante? Ma una persona sceglierà anche di fare un pagamento secondo le sue esigenze. Voglio dire, non chiedeva mica un regalo. Allora mi interessava quel frigorifero perché certo rispondeva alle caratteristiche che io desideravo e per questa ragione tra l'altro appunto faccio finanziamento, ho la possibilità, non ho problemi e quindi se volevo quello facevo finanziamento. Certo, no, mi scusi Gianni, un'ultima precisazione, lei era in ritardo con la seconda rata, perché gli è arrivato il sollecito? Gianni, perdoni, non la sento. Le è arrivato il sollecito per la seconda rata perché non era nei tempi previsti? No, no, io avevo pagato la prima e loro per un loro errore hanno minacciato, lei non ha pagato, cosa che non era vera, e hanno minacciato questa segnalazione. Va bene Gianni, in ogni caso sarebbe necessario poter documentare un po' meglio la sua vicenda, vedere anche magari qualche cosa di scritto, o non per mettere in dubbio ovviamente quello che lei ci racconta, però come mai? Cioè una finanziaria si alza al mattino e bisognerebbe vedere anche loro che tipo di errore hanno commesso, però mi interessa molto la dinamica della erogazione del finanziamento, ma davvero siamo a questi livelli, Piano Mortari, insomma, non possiamo più portare a casa un frigorifero a meno che non lo paghiamo a rate? No, concordo con lei che ovviamente non ci può essere nessun obbligo di questo genere, e che se non si vuole accettare un sistema di pagamento che il negoziante vuole imporre, semplicemente si girano i tacchi e si sceglie un altro fornitore. Quel frigorifero probabilmente sarà venduto anche da altre catene distributive, altri negozi, e quindi un comportamento di questo genere non è accettabile assolutamente. Invito anche Gianni a scriverci per raccontarci le motivazioni per cui c'è stato questo errore, tale per cui è arrivato il sollecito per il pagamento della seconda rata. Rubo 10 secondi alla regia Giancarlo Cupane, perché sennò mi ritiene maleducata. La vorrei salutare magari così con una visione da qui a Natale. Che cosa prevede per il vostro comparto? Una lenta ripresa. I segnali li vedremo veramente dopo gennaio, però a saperli cogliere non a occhio nudo qualcuno lo troviamo già prima di Natale. Vi rinvito presto entrambi, perché è una accoppiata che mi piace molto, la trasmissione è sempre molto dinamica. Grazie a Giuseppe Pianomortari, a Giancarlo Cupane. Noi ci risentiamo domani. Buona giornata a tutti.